Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Da questo numero il nostro video informatore inizia la sua pubblicazione periodica con scadenza settimanale. La voce che sentite è quella di Ivana Ramella, che dal salotto di casa sua a Biella, a metà strada tra Torino e Milano, dà il via alle trasmissioni della prima televisione privata italiana, Tele Biella. È il 6 aprile del 1972 e la piccola televisione privata fondata dal marito di Ivana Ramella, Peppo Sacchi, scatena una delle più importanti rivoluzioni silenziose del nostro paese. Per la prima volta qualcuno decide di combattere il monopolio della televisione di Stato e intraprende un cammino come una nave rompighiaccio che porta in pochi anni alla nascita del moderno sistema televisivo italiano. L'esperienza di Telebiella viene imitata da altre emittenti che incominciano a trasmettere in varie parti della penisola. Le trasmissioni si alternano alle ordinanze dei questori, che impongono la chiusura delle sedi e lo spegnimento del segnale, che viene però ripristinato in pochi giorni dopo l'ennesimo ricorso. La voglia di far sentire la propria voce è la vera forza di questa rivoluzione, che porta in soli 3 anni alla nascita di una legislazione capace di regolamentare il mondo dell'etere. Alla fine del 1975 lo Stato italiano legifera sul settore televisivo e radiofonico, legittimando la nascita dell'emittenza privata. Anche il mondo della radio subisce una profonda e rapida trasformazione. Fino agli inizi degli anni 70, le pochissime alternative alla RAI sono Radio Monte Carlo, che trasmettendo dal Principato di Monaco e quindi in terra straniera, riesce a farsi ascoltare da buona parte del nord Italia. Radio Capodistria, che trasmette dalle coste orientali dell'Adriatico. Ma la battaglia vinta da Telebiella dà il via, a partire dal 1975, alla nascita di alcune piccole realtà radiofoniche private che iniziano a diffondere il loro segnale con apparecchiature poco potenti, che solo in rari casi riescono a superare i confini regionali. La prima in assoluto a iniziare le trasmissioni è Radio Parma, proprio il 1 gennaio del 1975. Dopo 3 mesi partono anche le trasmissioni di Radio Milano International. Hey, you. I am Radio Milano International. Programma sperimentale di Radio Milano International. Presentato da Rino e Nino. Nino e Rino. Ciao a tutti. Ciao. Radio Milano International copre con il suo segnale buona parte del nord Italia e diventa in pochi mesi il riferimento musicale di quegli anni. La si ascolta anche in un piccolo paesino in provincia di Modena, dove un gruppo di amici appassionati di musica si ritrova al bar del paese a fantasticare su cantanti, canzoni e stili musicali. Li unisce una grande passione per la musica e così, fra una chiacchiera e l'altra, viene fuori un timido progetto di creare una piccola radio per raccontare a tutti le loro esperienze. A Milano è in corso il SIM, il Salone Internazionale della Musica, un'occasione importante per incontrare tutti gli esperti del settore musicale. Il gruppetto di amici decide quindi di recarsi a Milano e farsi dare tutte le informazioni necessarie per acquistare le apparecchiature che servono a trasmettere un segnale radio. Il gruppo di amici è capitanato dal figlio di un semplice camionista che, dopo aver trascorso gli anni della scuola in un collegio salesiano ed essersi iscritto all'università per studiare psicologia, sta coltivando la passione per la musica. Come tutti gli abitanti del suo paese in provincia di Modena, Zocca viene considerato un montanaro, ma la sua anima è già abbastanza arrabbiata per uscire dall'anonimato e conquistare il mondo. Il suo nome è Vasco Rossi. Vasco Rossi. Ci crediate o no, la carriera musicale di Vasco Rossi è iniziata proprio tra i banchi della chiesa del suo paese, dove Vasco accompagna alla chitarra e il coro durante la messa della domenica. In quel primo periodo della sua vita, Vasco Rossi non è ancora quel ragazzo ribelle che tutti conosciamo, è il figlio di un signor Rossi qualunque, gente semplice di provincia, che lavora e si spacca la schiena guidando un camion, come racconta nel recente film Questa storia qua, presentato all'ultimo Festival di Venezia. Sono figlio di contadini e di gente che ha sempre avuto un tipo di lavoro libero in un certo senso, che faceva quando decideva lui, anche camionista addirittura come mio padre. Io infatti il lavoro che avrei fatto probabilmente se non riuscivo a fare qualcos'altro era il camionista. È un ragazzo che va a scuola. I suoi ci tengono a dare a Vasco una possibilità. Ma come tanti ragazzi della sua età, non sa ancora cosa fare della sua vita. A 22 anni non sapevo veramente cosa fare, dato che non volevo fare economista, come al commercio non mi piaceva, non volevo fare ragioniere perché piuttosto sarei morto. In quel treno per Milano c'è quindi più della passione per la musica. Viaggia il desiderio di superare le convenzioni, il posto fisso, di scrivere le pagine della propria vita in un modo diverso e non dettato dal conformismo. L'ispiratore del gruppo è Marco Gherardi, che ha intenzione di incontrare lo staff della neonata Radio Milano International e farsi spiegare tutto ciò che serve per aprire una radio privata. Vasco e i suoi amici si autotassano di 250.000 lire ciascuno e si indebitano fino al collo per acquistare un trasmettitore da 10 watt. Il 21 settembre 1975, Punto Radio comincia a diffondere il suo segnale e in poco tempo diventa uno dei punti di riferimento dell'emittenza privata italiana. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che cosa se quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Da una villetta nei pressi di Zocca, in provincia di Modena, un gruppo di amici ha iniziato la trasmissione di una nuova radio privata, Punto Radio. L'amministratore di questa emittente è Vasco Rossi, che della radio condivide le gioie e i dolori, compreso il problema dei sigilli della polizia postale, che poche settimane dopo la sua apertura blocca il segnale della radio e porta Vasco davanti al pretore. Quale radio fu quella denunciata e sequestrata dalla Escopos e dai carabinieri? La nostra, chiaramente, i carabinieri di Zocca, che un giorno vennero e la sequestrarono tutto e mi denunciarono alla polizia postale e quindi ebbi il primo processo davanti al pretore di Viola. Venne a difendermi un avvocato di Genova che si interessava appunto del fatto che il monopolio Rai fosse incostituzionale, quindi facemmo questo processo e il pretore di Viola mi assolse. Facendo questo praticamente ha liberalizzato tutte le radio. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa, chissà cos'è. Nel caos legislativo di quegli anni, il pretore dà ragione alla libertà di espressione e la radio riapre i battenti cominciando a trasmettere con un vero e proprio palinsesto. La radio trasmette musica, ma non solo. Ciò che caratterizza infatti le radio private sin dall'inizio è la presenza di disc jockey che alternano le canzoni con spazi in cui si parla e si trattano gli argomenti più vari. Il gruppo della radio si allarga e si allarga anche il pubblico che aumenta vertiginosamente, attratto anche dalle feste e dagli eventi che la radio organizza. Per il gruppo di cinque amici che hanno montato da soli il primo traliccio di trasmissione, arrivano anche i primi sospirati guadagni e la speranza di trasformare la loro passione in un lavoro vero e proprio. Punto Radio era ovviamente diventato un punto di riferimento notevole che ascoltavano in parecchi, perché non si era mai sentita della musica come, non so, i Rolling Stone, Bruce Springsteen, capito, la Rai. Per gli altri era un gioco e basta, non si rendeva conto della potenza che poteva avere. L'unico che ci vedeva dentro veramente la possibilità di un lavoro, di uscire da Zocca, ero io. Punto Radio va a gonfie vele e Vasco comincia ad assumere un'identità precisa dal punto di vista professionale. Diventa a tutti gli effetti un disc jockey di punta della radio e come tale inizia anche a guadagnare bene con le serate nei locali della zona. I ripetitori di Punto Radio diffondono il segnale in una zona sempre più ampia e alcuni dichiarano che ormai la radio si riesce a sentire anche a Milano. Vado da Adotè. Chi? Adotè, Adotè. Chi? Adotè. Hai capito? Ah, audio test. Chi? Audio test. Chi? Audio test. Zocca è una cittadina della provincia modenese. Gente semplice che lavora e Punto Radio viene vista da tutti come un trampolino di lancio per aumentare la notorietà della zona e muovere l'economia di un paese che può trarre solo dei benefici dalla presenza di una radio privata. Tutti i ragazzi della zona sono profondamente influenzati dalla presenza della radio e molti sognano di poter collaborare con quei pazzi scatenati che stanno rompendo la monotonia via etere. A due passi da Zocca c'è un altro paesino che si chiama Vignola ed è famoso soprattutto per la varietà di ciliegie che proprio dal paese prendono il nome. Sull'autobus che porta a Modena c'è un ragazzino di 17 anni che studia musica e sa suonare molto bene il pianoforte. Di tanto in tanto suona nelle balere della zona, quindi sa cosa vuol dire avere a che fare con un pubblico che ti giudica. La sua passione per la musica lo porta a bussare alle porte di Punto Radio, dove lavora un suo amico, Vasco, conosciuto proprio sull'autobus che porta a scuola. Il suo nome è Gaetano Curreri. Gaetano Curreri. Poi tu fai parte della mia storia. Esatto. Gaetano, tu fai parte della mia. Diciamo, facciamo parte della nostra storia. Dobbiamo dire che abbiamo... La geografia è in comune, perché uno è Zocca, l'altro è Vignola. Esatto, siamo nella zona, che è la stessa zona. E quindi è per questo motivo stiamo bene assieme. Gaetano fa amicizia immediatamente con Vasco. I due sono coetanei e li accomuna una grande e sconfinata passione per la musica. Hanno entrambi l'entusiasmo tipico di quei ragazzi che hanno tantissime cose da raccontare e trovano proprio nella musica lo strumento perfetto per poter gridare al mondo quello che hanno dentro. L'intesa è pressoché immediata. Gaetano Curreri entra senza troppe formalità a far parte della squadra di Punto Radio. Punto Radio, colazione, dimensione. Tu mi devi spiegare che cosa sono queste foglie culturali, perché io ancora non ci ho capito niente. Vieni qui, Ricciolino, che te lo spiego io. Abbiamo pensato questa volta che una festa in fondo qui è poco. Allora quindi abbiamo pensato di farne 5, ma non 5 sparse in un lunghissimo tempo. No, 5 dietro fila, un giorno dopo l'altro. Una cosa appunto così, tipo follia di Punto Radio. Quindi abbiamo pensato di fare 5 feste consecutive in 5 locali diversi, una settimana intera insomma di follia. Vasco Rossi si alterna con altri disc jockey alla conduzione dei programmi. Sono trasmissioni sperimentali che portano anche i microfoni per strada, dove viene intervistata la gente comune che per la prima volta ha la possibilità di esprimere le proprie opinioni senza filtri. Vasco conduce una trasmissione che si chiama Il Muretto, nella quale si alternano parole e musica. I temi affrontati sono molto seri. Si parla di filosofia, di problemi esistenziali, di sentimenti. Tematiche che piano piano entrano nella testa di Vasco e sono destinate a diventare parte dei testi delle canzoni che lo stesso Vasco comincia a scrivere. Gaetano Curreri ha portato nella villetta da cui parte il segnale di Punto Radio il suo pianoforte ed esegue dal vivo durante le trasmissioni gli stacchetti musicali che accompagnano i disc jockey. Anche a lui piace comporre musica e a volte si ritrova tra le dita una melodia su cui inizia a lavorare, da cui nasce una canzone. È proprio in uno di questi momenti che i due ragazzi scambiano le loro emozioni al pianoforte e danno alla luce una delle prime canzoni di Vasco Rossi, Silvia. Fai presto, che sono le 8. Se non ti muovi, fai tardi lo stesso. E poi la smetti con tutto quel trucco. Che non sta bene, te l'ho già detto. Vasco Rossi e Gaetano Curreri stanno vivendo l'inizio della loro carriera a Zocca, nel Modenese, dove alternano la loro attività alla radio con quella di musicisti. Vasco ha una cultura musicale più ispirata al rock. I pezzi che lui stesso seleziona e manda in onda durante i suoi programmi attingono al repertorio di Bruce Springsteen, Lou Reed, i Clash. Vasco ha un atteggiamento sempre più forte e deciso nei riguardi della società. Lenta e decisa, comincia a venir fuori la sua parte più trasgressiva. È nato tutto con questo pianoforte che diventava un po' il centro di produzione di tutte le canzoni e di tutto quello che musicalmente di originale stava nascendo dentro la radio. Era in una stanza molto grande di passaggio, fra l'altro, dove ci mettevamo lì e suonavamo. Gaetano Curreri ha un'anima melodica. Lo stesso utilizzo maniacale del pianoforte, strumento che poco ha a che fare con il rock più duro, non fa altro che stemperare gli accessi creativi di Vasco Rossi, con il quale diventa sempre più forte l'intesa professionale, aiutata anche da un'amicizia che cresce di giorno in giorno. Vasco aveva una grande capacità espressiva, cioè lui ti legge anche l'elenco del telefono e ti fa emozionare, capito? Perché ha questa sua voce, questo suo modo di ritmare le parole, che è unico, e ce l'aveva già allora. Questo è un dono naturale che ha Vasco, e io ho capito lì che Vasco era uno che aveva la potenzialità per fare delle belle canzoni e essere un bravo cantautore, questo sì. Lentamente la collaborazione artistica fra Vasco e Gaetano diventa solida come una montagna, ed è proprio Curreri a cominciare a pensare che da quella montagna su cui si trova Zocca bisogna cominciare a scendere e affrontare il mondo con uno spirito diverso. Ecco che i due, su spinta di Curreri, iniziano a far girare i loro pezzi, a farli ascoltare a un pubblico sempre più vasto. La radio ora ha dei trasmettitori più potenti e comincia a fare da amplificatore alle canzoni che Vasco scrive e Gaetano arrangia. Curreri rende più melodiche le canzoni di un Vasco sempre più arrabbiato e quindi le trasforma in qualcosa di più digeribile, di più radiofonico. Jenny non vuol più parlare, non vuol più giocare, vorrebbe soltanto dormire. Una di queste è Jenny è pazza, canzone che Curreri trasforma suonandola con il pianoforte proprio negli studi di Punto Radio. Vasco capisce che il suo amico Gaetano riesce a cogliere il lato più dolce del suo ruvido carattere e accetta i consigli di quello che ormai sta diventando quasi un fratello. Finché un giorno il discografico di Bologna, tale Paolino Borgatti, ascoltò queste canzoni e disse: va bene, vi faccio fare il disco. Lui aveva fatto un successo clamoroso con una canzone che si chiamava La Mazzurca dell'Uccellino, che era una canzone che aveva spopolato in quei tempi, perché era una canzone piena di doppi significati: c'era la mazzurca, l'uccellino, la signora. Se non ci fosse stata la mazzurca dell'uccellino, probabilmente non ci sarebbe stato Vasco Rossi, non ci sarebbero stati i soldi per poter finanziare i primi due album di Vasco. Intanto Punto Radio aumenta l'organico e al gruppo storico si aggiunge un chitarrista che da subito dimostra di essere un ottimo musicista, Maurizio Solieri. E verso il 1977, nella primavera del 77, conobbi Vasco Rossi, che era un compagno di scuola in collegio di uno dei miei migliori amici, nati appunto con me in questo paese che si chiama Concordia, in provincia di Modena, e che suonava la batteria con me. Fui chiamato da questo mio amico che si chiama Sergio Silvestri, che mi disse: devi venire assolutamente perché dobbiamo andare a Milano a fare dei provini con Vasco Rossi. Niente, salimmo sul treno, su questo treno rigorosamente in terza classe, in seconda classe, questi treni nella nebbia, andavano a Milano. Lui aveva questa chitarra e me la fece provare, accennai alcuni accordi e lui disse: cazzo, sei bravo, sei un ottimo chitarrista. Da lì partì il mio sodalizio con Vasco, che dura tuttora. È un momento importante per il gruppo di amici che da Zocca partono alla volta di Milano per fare il loro primo provino. Da qualche tempo la radio ha lanciato una nuova iniziativa, i puntautori, ovvero i cantautori di Punto Radio, che oltre a passare nei programmi radiofonici iniziano a esibirsi durante le feste in discoteca. Tra loro il meno entusiasta è proprio Vasco Rossi, che più di una volta interrompe la sua esibizione mandando tutti a quel paese. Lui vuole continuare a fare il DJ e il rapporto con il pubblico non gli interessa, ma è il suo amico Gaetano Curreri a insistere e alla fine a convincerlo a partecipare a questo provino. Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Destini incrociati. Destini incrociati oggi vi racconta la storia di un sodalizio artistico nato negli studi di una delle prime radio private italiane, tra due amici che da 40 anni scrivono la storia della musica italiana, Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Bene, no, oggi comunque ragazzi abbiamo la fortuna di avere con noi come ospite niente di meno che... si è staccato tutto, aiuto, cosa è successo? Abbiamo degli attacchi terrificanti. Gaetano Spico Curreri! Sono qua! Oh yeah! Gaetano Spico Curreri, che si è venuto a trovare... Si fa tutto in casa. Qui è tutto fatto così, sai, i mezzi della produzione purtroppo che mi danno a disposizione, come vedi, sono questi. Proprio una storia di tutti. È una storia di tutti. È una cosa così, devo fare tutto solo... Sei predestinato. Perché sono in realtà al buio. Convinto delle grandi potenzialità del suo amico Vasco, Gaetano incomincia a contattare tutti i discografici che si trovano a Milano. Deciso a ottenere qualche provino per fare ascoltare i pezzi che ha scritto e che, come un vestito, ha adattato allo stile di Vasco Rossi. Andammo a Milano, mi ricordo, le girammo tutte, andammo in una casa che si chiamava Riffi Record, andammo alla Imi stessa, la nostra attuale casa discografica. Ci accoglieva un signore in camice bianco, ci mettevano in questa stanzetta, pianoforte, io e chitarra Vasco, e poi registravamo queste canzoni e loro poi ci dicevano sempre: vi faremo sapere. Le prospettive non sembrano buone. Molti ascoltano i pezzi di Vasco e Gaetano, ma nessuno vuole sbilanciarsi e dare fiducia ai due musicisti. E attraverso un'altra persona riuscimmo ad avere un appuntamento e lì ci andai da solo, pensa, perché Vasco non ci voleva più venire a Milano. E ci andai, io andai a incontrare questo discografico, che era allora il discografico della Saar, che si chiamava Gurtler, uno svizzero, uno personaggio che abitava a Lugano, che girava in Porsche. Che dopo, quando Vasco lo conobbe, gli piacque molto, perché credo che anche perché girava in Porsche, e disse di sì, gli piaceva. In quel momento, a tutti gli effetti, Vasco ebbe finalmente la sua prima casa discografica, e lì è cominciato tutto. Walter Gwertler nasce come editore di jazz, ma da qualche anno ha iniziato a produrre anche musica leggera. Ha un'abilità nascosta, quella di saper riconoscere un artista di successo. Lo ha già fatto con Tony Dallara, con Adriano Celentano. Gwertler, senza troppe parole, come è abituato a fare, mette sotto contratto i due autori e pubblica Alba Chiara, la canzone che diventa il cavallo di battaglia di Vasco e con la quale termina tutti i suoi concerti. L'album di esordio si intitola Non siamo mica gli americani. Tirando le somme, il successo del disco non è eclatante, ma ha una duplice utilità nella carriera artistica di Vasco Rossi. In primo luogo, permette a Vasco di cominciare ad avere una maggiore visibilità con il suo pubblico, e in secondo luogo, fa sì che i due giovani ragazzi di provincia escano dal guscio dell'indifferenza che consente loro di acquistare la fiducia nei propri mezzi. A un certo punto, un giorno, in un capannone a Bologna, dove c'era la festa delle radio libere di tutta l'Emilia Romagna, cominciava a suonare, c'era un bar di fianco con tre scarini, un bar di fighetti che non ci cagavano, però facevano delle freccette di carta e ce le tiravano. E lì ho provato proprio l'umiliazione più grande della mia vita. Poi, andando a casa in macchina, convinto di non fare mai più una cosa del genere, mi si è girato nella testa non so che cosa, e ho detto no, adesso questa diventa una guerra, perché in realtà più che di concerti si trattava di guerra. Non te ne devi vergognare, e quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori. Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori. Accanto a Vasco e a Gaetano si stanno riunendo quegli amici e compagni di avventura che sono destinati a vivere la storia rock più bella della musica italiana. Noi abbiamo una grande armonia all'interno della band, no? C'è molta amicizia, ci divertiamo, eccetera, eccetera. Prima del concerto stiamo in camerino e ognuno fa un po' le sue cose, io suono un pochino in cuffia, così mi faccio un pochino di esercizi, magari un altro manda la mail, un altro chiacchiera, mangia qualcosa, eccetera, eccetera. Però in generale c'è un'emozione, c'è un'emozione positiva, cioè la voglia di andare sul palco a suonare. Oltre a Maurizio Solieri, del gruppo fa parte anche un amico d'infanzia di Vasco, Massimo Riva, che pur essendo più giovane di quasi 10 anni, rappresenta per il Blasco, come ormai lo chiamano tutti, un fratello con cui condividere gioie e dolori. Avevo un sacco di strumenti di paranoia sul palco, perché non era il mio carattere, quindi per superarle bevevo molto fino al giorno prima. E in quel periodo lì ho cominciato a usare un po' tutti i tipi di sostanze che trovavo. Lo facevo perché volevo scrivere più canzoni, perché volevo essere meglio sul palco. Il problema della tossicodipendenza ha accompagnato Vasco Rossi per tutta la sua carriera. Gli arresti, il carcere, la disintossicazione sono episodi che oggi Vasco racconta con fare distaccato, ma che hanno profondamente segnato la sua carriera artistica. Una sera ero in un locale, si avvicinano due persone in borghese e mi dicono che hanno un mandato di perquisizione e di arresto per possesso di droga. Io naturalmente a quel punto gliela do. Mi portano in un carcere a Pesaro e rimango 5 giorni in isolamento, e quei 5 giorni sono stati molto lunghi. I minuti non passano mai, sembrano dei giorni, e la sensazione è una sensazione assurda, dove non hai niente, se non hai sigarette non fumi. Non mi ha tirato dentro un libro di fantascienza, per fortuna, perché altrimenti sarei morto. Gli episodi negativi che attraversano la vita di un rocker non fanno altro che aumentarne la forza e accrescere quel desiderio irrefrenabile di raccontare le cose in modo diverso, senza compromessi, senza mezzi termini. Io ho avuto un bel periodo per ricordare, ripensare a tutto quello che avevo fatto, tutto quello che era stato, tutto quello che mi era capitato. Al suo fianco c'è sempre comunque Gaetano Curreri, che invece rappresenta il lato razionale del Blasco, quello che mantiene il controllo, quello che non smette mai di inseguire un obiettivo, quello che continua a moderare il lato più rock del cantante di Zocca. Nel 1979, dopo la pubblicazione dell'album di Vasco Rossi, anche Gaetano Curreri inizia la sua carriera parallela, quella di musicista. Entra infatti a far parte del gruppo di musicisti che accompagnano Lucio Dalla e Francesco De Gregori nel tour Banana Republic. Noi eravamo il gruppo che accompagnava Dalla. Un giorno Dalla ci disse: adesso ci fondiamo con De Gregori e alcuni musicisti di Francesco verranno a suonare con noi, faremo questo tour. E fu un tour eccezionale, perché devo dire che per la prima volta si sentiva la musica negli stadi, anche da qui poi il nostro nome. Dalla collaborazione tra i musicisti dei due cantanti che si ritrovano a suonare insieme nasce un nuovo gruppo di cui Curreri diventa il leader, gli Stadio. Eravamo veramente agli albori di quello che poi è successo negli anni, che è la musica appunto negli stadi, i grandi concerti e tutte queste cose qui. E Banana Republic è stata proprio è stata la chiave che ha aperto tutte queste possibilità, e noi siamo onorati, siamo orgogliosi di aver partecipato a questa grande avventura, proprio perché da lì poi è nata l'idea di fondare il gruppo. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati racconta la carriera di due grandi della musica italiana, il cui incontro negli studi di una piccola radio privata di provincia ha dato il via a un sodalizio artistico e a una grande amicizia che ancora oggi continuano a produrre grandi successi: Gaetano Curreri e Vasco Rossi. Allora lui aveva la BMW nera, perché era la macchina da disc jockey. Io ho capito che lui voleva fare il cantautore quando ha cambiato la macchina, che si è comprato l'R4 rossa. Mi è stato il giorno in cui ho capito che era il momento che aveva deciso che la carriera da disc jockey sarebbe stata accantonata per decidere di fare il cantautore. Il successo di Vasco Rossi non ha bisogno di essere raccontato. Le sue canzoni si conoscono a memoria e non riusciremmo ad elencarle tutte. Vita spericolata, Bollicine, Una canzone per te, Gli spari sopra sono solo alcune delle decine di canzoni che il Blasco ha regalato a due generazioni di italiani. Non è difficile trovare ai suoi concerti genitori e figli, uno accanto all'altro, a cantare a squarciagola Colpa d'Alfredo e Siamo solo noi. Non pensavo di fare il cantautore. Questa è la cosa divertente, sicuramente non pensavo mai neanche lontanamente di fare questa storia qua. E avevo individuato nel disc jockey il lavoro che forse mi piacerebbe fare, ecco, questo un po' per riprendermi il rapporto con le donne, che è più facile se sei disc jockey, non so perché. Gaetano Curreri con gli Stadio ha avuto un buon successo anche stringendo un sodalizio artistico con Carlo Verdone, con il quale ha collaborato per la realizzazione della colonna sonora di alcuni film. Sì, noi con Verdone ne abbiamo fatte diverse, veramente colonne sonore. Abbiamo cominciato con lui, proprio ti raccontavo, con Borotalco, poi Acqua e Sapone, poi Due Carabinieri, poi Stasera a casa di Alice, e adesso stiamo collaborando anche per questo suo film che dovrebbe uscire comunque tra poco. Io ci sto lavorando proprio in questo periodo, che si chiama In Paradiso Posto in Piedi, e mi piace l'idea molto di essere tornato a lavorare con Carlo, perché oltre ad essere un amico è una persona molto stimolante, ti dà idee musicali, è un musicista fondamentalmente, Carlo. Grande figlio di puttana, ma che amico. Borotalco, Acqua e Sapone, Stasera a casa di Alice sono solo alcuni dei film a cui Curreri ha collaborato. Una carriera fitta di collaborazioni con registi e cantanti. La vera forza che ha portato avanti per 40 anni la carriera di Vasco Rossi è la sua grande amicizia con Gaetano Curreri e gli altri componenti della band. Un'amicizia che va al di là del rapporto professionale, un'amicizia che è stata fondamentale a Vasco per superare i momenti di paura prima di ogni concerto. Sul palco ci andavo anche perché c'era Solieri che suonava da Dio, e quindi io ero tranquillo che comunque non facevamo molta figura, poi Massimino di fianco faceva il matto, divertiva moltissimo, quindi mi aiutava molto questo fatto. Vasco e Gaetano hanno scritto molto insieme, ma non solo per Vasco. Da quel pianoforte portato con fatica nelle stanze di Punto Radio sono uscite canzoni per Patti Pravo, Irene Grandi, Noemi. No, Noemi è una grande cantante, questo io l'avevo notato subito ascoltandola in radio, perché non segue i talent show, però poi lei fece un'intervista molto carina e molto, molto simpatica, dove su un giornale, e disse all'intervistatore che lei il sogno della sua vita sarebbe stato quello di cantare una canzone mia e di Vasco Rossi. E questa canzone, questa intervista ha colpito molto Vasco, perché lei non ha detto voglio una canzone di Vasco Rossi, ha detto voglio una canzone di Gaetano Corrieri e Vasco Rossi. E questo è piaciuto molto a Vasco, e gli ha detto sai cosa facciamo? Che gliela scriviamo una canzone. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati. Sono stati quasi eterni, quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente. Di questi tempi Vasco è a casa sua, a Zocca, e non è difficile vederlo andare in bicicletta o passeggiare per strada tra i suoi vecchi amici. Il cancello della sua casa è spesso piantonato da fan che come in un pellegrinaggio si fermano a scrivere qualcosa sul muro di cinta con la speranza di scambiare due parole con il loro idolo. Vasco ha anche scoperto la tecnologia e da un po' di tempo comunica attraverso la rete con i suoi clippini, pillole di ricordi, opinioni e commenti su tutti gli argomenti. Devo dire una cosa, che ho notato che io l'80% delle cose che dico sono stronzate. Però ho guardato anche gli altri, ho fatto molta attenzione, ho visto che anche gli altri anche dicono più problemi, stronzate, no, diciamo che l'80% sono sempre stronzate. Accanto a Vasco oggi c'è la sua fidata e instancabile assistente Tania, che lo aiuta e filtra le numerose interviste che le varie testate chiedono al Blasco, cercando con insistenza qualche sua dichiarazione anche sulle voci riguardanti una sua presunta malattia. Clippino! Oh, adesso no, volevo dire una cosa. Dunque io vorrei chiarire per tutti quelli che leggono un po' così, diciamo così, un po' in fretta, che leggono più in fretta le cose che sono scritte sotto. Dunque io non ho nessun tumore, che sia chiaro, non ho nessun tumore. Ho un'infezione che, di un batterio che per essere debellato, è un batterio killer, per essere debellato bisogna fare 6 settimane di una cura antibiotica molto potente, va bene questo? Una cura antibiotica molto potente. Ogni tanto passa anche Gaetano Corrieri, che non ha certo bisogno di inviti per entrare in casa Rossi. Lui è uno della famiglia. Il successo ha cambiato tante cose. Stili di vita, abitudini, automobili. Di certo rimane la semplicità di due ragazzi di provincia che hanno creduto fino in fondo nell'inseguire un sogno. Dai tempi di Punto Radio molte cose sono accadute. Successi, polemiche, arresti, amici che non ci sono più. La musica ha accompagnato ognuno di questi momenti con una sua particolare colonna sonora e Gaetano e Vasco hanno saputo in più di una occasione trasformare le loro emozioni in canzoni. Vivere è passato tanto tempo. Vivere. Non potete però continuare a dirmi che io non posso dire, perché altrimenti sono un cattivo maestro. Io sono cioè cattivo buono, io dico la mia opinione, la posso dire o devo stare zitto perché altrimenti influenzo chi? Cioè basta con questa stupidaggine. So questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha.